Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. Abbiamo parlato più di una volta del solare termico, quello insomma per produrre l'acqua calda, sanitaria oppure per il riscaldamento. C'è un dato che è emerso abbastanza chiaramente, ossia che questa fonte pulita, disponibile, è molto sottovalutata. Insomma, c'è un po' di snobismo, per così dire, nei confronti di questa tecnologia, forse per il fatto che è una tecnologia che esiste da molto tempo e non dà molto il senso del futuro. E se questo è vero per quanto riguarda le applicazioni nel campo del residenziale, questo è ancora più vero per quanto riguarda le applicazioni industriali. Cerchiamo allora di capire come stanno le cose, invece quali potrebbero essere le prospettive. Ci facciamo aiutare in questo da Davide Chiaroni, ricercatore dell'Energy Strategy Group, che è in linea con noi. Buonasera Chiaroni. Buonasera, buonasera a lei e ai radioascoltatori. Allora, è vero che c'è pochissimo in Italia di utilizzo industriale dell'energia solare termica? Assolutamente sì, diciamo che i sistemi industriali rappresentano ancora oggi in Italia poco più che un'eccezione. Pensi che negli ultimi 2 anni dei circa 600 megawatt termici che sono stati installati, meno del 10% fa riferimento a impianti superiori a 25 kilowatt termici e quindi diciamo che possono cominciare ad essere impiegati per utilizzi industriali. Sì, ecco, teniamo conto che una caldaia di quelle che abbiamo nei nostri appartamenti singoli, cosa produce di calore? Forse 15 o 30 kilowatt, una roba lì in mezzo, no? Ecco, questo per dare un'idea. Quali sarebbero, poi parliamo di tecnologie, le industrie che potrebbero insomma trarre maggior beneficio dal solare termico? Beh, diciamo che considerando il fatto che con i sistemi attualmente a disposizione si può con abbastanza facilità raggiungere temperatura del fluido, solitamente l'acqua che viene fatta passare all'interno di questi sistemi tra i 120 e i 140 gradi centigradi, i mercati più promettenti sono sicuramente quello dell'alimentare, ad esempio per la sterilizzazione dei contenitori o per la cottura dei cibi. C'è poi un altro mercato interessante che è quello tessile, per il processo di lavaggio e preparazione dei tessuti, e infine ovviamente quello cartiero per la preparazione del pulping che viene utilizzato nella realizzazione della carta. E tutti questi settori potrebbero beneficiare di questi sistemi, che ovviamente devono essere accoppiati a un sistema diciamo primario tradizionale, integrati con un sistema tradizionale, perché il sole appunto ha il difetto che va e viene. Esatto, mentre questo tipo di processi spesso è realizzato in continuo. Però d'altra parte, tenendo proprio conto che questo tipo di sistemi può andare ad aiutare un sistema primario già esistente, praticamente con costi estremamente limitati e con tecnologie ormai mature, rappresentano delle potenzialità di investimento che sono purtroppo sottovalutate, ma che avrebbero invece un grandissimo potenziale. Ecco, a proposito di tecnologie, si utilizzano esattamente le stesse tecnologie che si utilizzano per fare l'acqua calda sanitaria, quindi ci sono i pannelli piani, quelli sottovuoto se si vogliono temperature un po' più alte. Al massimo a quanto si arriva di temperatura, diciamo utilizzando le versioni più sofisticate? Diciamo che le versioni più sofisticate, che hanno anche dei sistemi di riflessione un po' particolari in alluminio, arrivano a temperatura del fluido fino ai 200-250 gradi centigradi. Ah, però, insomma, il range di applicazioni è estremamente ampio. Abbiamo anche detto che da un punto di vista economico i rientri sono piuttosto rapidi. Assolutamente sì. Teniamo conto che se si considera il fatto che questo tipo di impianti può accedere agli sgravi fiscali del 55%, i tempi di ritorno sono nell'ordine dei 3 anni. Ma se anche non si applicassero gli incentivi fiscali, come sappiamo stanno per scadere, non si sa se verranno rinnovati, il tempo di ritorno oscilla fra i 5 e i 6 anni per un impianto di medie e grandi dimensioni. Quindi tutto sommato, parlando di impianti che vanno a servire processi industriali anche complicati, sono tempi con cui queste imprese tipicamente già si confrontano. Senta, avete fatto il conto di quanto si potrebbe contribuire attraverso questa fonte a quello che è il fabbisogno di energia termica industriale in Italia? Sì, abbiamo fatto questo conto, diciamo, prendendo come target di riferimento l'anno 2020 e pensando a una copertura che appare essere possibile del fabbisogno termico complessivo nell'intorno del 4%, vorrebbe dire installare circa 5 milioni di metri cubi di questo tipo di pannelli per un totale di potenza di 3,4 gigawatt termici. E questo, se ho capito bene, andando a, come dire, essenzialmente a impiantare questi pannelli sulle tipologie di industrie di cui parlavamo prima, cioè non stiamo parlando di fare operazioni strane. No, usando la tecnologia che attualmente c'è a disposizione, applicandola per quei settori dove per tipologia di processo e per tipo di temperatura, diciamo, del fluidi coinvolti, sono l'utilizzo dei sistemi solari termici è effettivamente possibile, si possono raggiungere percentuali di questo tipo della copertura del fabbisogno totale. Quindi 3-4% del fabbisogno totale, che è pari a qualcosa di più dell'1% del fabbisogno complessivo del paese. Assolutamente sì. Quindi comunque una cifra assolutamente significativa. Senta, mi pare di capire che c'è però qualche problema normativo, non che sia un'eccezione questa, piuttosto è la regola, ma ce lo spiega? Sì, diciamo che c'è un limite allo sviluppo abbastanza paradossale che fa riferimento alla carenza della normativa tecnica. Evidentemente quando parlo di impieghi di processo parlo della necessità di collegare questi impianti a impianti primari più grandi che fanno parte del normale processo produttivo. A questo punto si rende necessario normare il tipo di connessione, le caratteristiche per esempio di pressione in prossimità delle interfacce fra l'impianto solare termico e l'impianto tradizionale, e quindi evidentemente c'è tutto un problema di normativa tecnica che al momento è ancora in fase di definizione ed evidentemente rappresenta un limite allo sviluppo. Grazie Chiaroni. Grazie a lei, buonasera.